Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Comincio a sentirmi come un tredicenne all'esame di terza media. È una sensazione strana, decisamente lontana, che non pensavo di ricordarmi neanche più. È come quando sei l'unico a preoccuparti, sei l'unico ad avere paura, mentre tutti quelli attorno a te sanno che non stai correndo alcun pericolo, ma tu no, e hai paura. Mi chiamo Simone Conti, ho 27 anni, mi sono trasferito a Londra 2 anni e mezzo fa con la mia ragazza, con la quale convivo da 6 anni, stiamo insieme da 11. Qua lavoro come assistente architetto e nel frattempo sto finendo i miei studi in architettura come part-time. La giornata al lavoro. Francesco, giornata in fabbrica. Vestizione, controllo programma, ciclo produttivo, doccia di fine turno, fuori. E poi giornata per la politica, ricerca di informazioni presso uffici comunali, dare informazioni richieste via mail ai cittadini, segnalare a uffici competenti disservizi in tempo reale, preparare l'ordine del giorno per la prossima seduta. Francesca, studio di avvocate commercialiste, timbrare e accendere il PC, finire di tradurre in inglese un verbale di CDA, prendere un caffè con il collega, tradurre in francese 1 o 2 circolari, se avanza tempo rimettere le mani sul bilancio consolidato che poggia sulla scrivania da tempo. Ah, già che ci sono, dovrei andare a parlare con il responsabile risorse umane per una cosetta che mi sta proprio qui. Daniela, ingegnere ambientale, controllo dei punti luce via per via e calcolo del risparmio energetico con la sostituzione dei punti a mercurio. Lara, Technical and Regulatory Affairs, assemblare 3 fascicoli densi zeppi di informazioni e dati per richiedere al Ministero della Salute l'immissione in commercio di 3 nuovi prodotti antitopo. Dave, nulla, sono disoccupato. Se può essere un lavoro, al massimo io sono occupato nella ricerca di un lavoro. Faccio prima a trovare una vergine. Giulia, il mio lavoro oggi è mia figlia. Martina, oggi lavoro su diritto commerciale, uno dei 4 esami che mi separano dalla laurea triennale. Ho 21 anni, stasera per riprendermi invece guarderò Cars 2 con un bambino di 3 anni. Il grosso del lavoro sarà farlo rimanere sul divano. Emanuele, io lavoro in una scuola media come insegnante di musica. Dalle 7 alle 8 obbligo di accordare tutte le mattine 30 chitarre. Controllare che tutte le tastiere funzionino, controllare che le cuffie funzionino, preparare le fotocopie per 25 alunni di ogni singola classe. Dalle 8 alle 13 essere disponibile a spiegare anche 10 volte la stessa cosa e infine nel pomeriggio preparare le lezioni per il giorno dopo e graduare le difficoltà per classe e per alunno. 349-238-6666, voi siete qui, @radio24.it. Oggi si parla della vostra giornata di lavoro. Siamo più o meno alla fine della vostra giornata di lavoro, grosso modo. Dipende da che lavoro fate e quando avete cominciato. Detto questo, se siete alla fine della vostra giornata di lavoro, mi mandate un SMS, 140 caratteri, quindi concentratevi, con tutte le cose che avete fatto oggi al lavoro, da quando siete entrati a quando quando tra poco uscirete. Mi raccomando, proprio io ci tengo ai termini tecnici, cioè ci tengo a tutte le mansioni precise, una per una, dalle 8:30 di stamattina alle 17:30. Se siete in ufficio, se siete sul camion, mi dite le tappe che avete fatto e cosa trasportate. Se siete in un negozio, mi dite a che ora avete cominciato, quanti articoli avete venduto. Se siete in uno studio, quanti disegni avete fatto, quanti progetti, quanta creatività. Se siete in uno studio, guardate, se siete in uno di quei begli studi creativi in cui si fa ad esempio pubblicità. Esiste ancora la pubblicità? Esistono ancora agenzie di pubblicità? No, ma neanche sul web. Cioè, nel senso che tu mi vuoi dire che c'è veramente della gente che è ancora lì, tipo i copy e gli art director? Ma c'era negli anni 80. Adesso ci sarà mica più gente che si mette lì a fare i, come si chiamano, i claim. Se ci sono e stanno ascoltando, tutto quello che avete fatto da stamattina ad oggi. Se invece avete montato il turno adesso, ci sono turni che cominciano alle 16, ma per forza ci saranno turni che cominciano a qualsiasi ora. Vi mettete lì e mi scrivete tutto quello che dovete ancora fare. Se siete ad esempio gente che lavora di sera, se siete, come si chiamano i tizi, netturbini ad esempio, quelli che vanno in giro di notte, se pulite le strade a Milano, se siete degli attori ad esempio e andate in scena questa sera e fate uno spettacolo, mi dite che spettacolo fate, dove lo fate, fate, quanto dura. Mi raccomando, quando fate uno spettacolo, scrivete sempre quanto dura e mentite sulla durata. Se dite che uno spettacolo dura più di un'ora e mezza, verrà la metà della gente. Dite sempre che dura un'ora e dieci. Se ne dura tre, dite che dura due ore e quindici. 349-238-6666. Oppure voi siete qui, chiocciolaradio24.it, ma c'è anche un profilo Facebook di questo programma che è sempre quello, che è Matteo Caccia. Io sono qui. Tutte le cose che avete fatto nella vostra giornata di lavoro, tutte le cose che ancora avete da fare. Questa puntata è dedicata tutta a Simone. Simone lo sentiremo più tardi, è un giovane ragazzo, giovane no, c'ha 32 anni, ha 27 anni, allora è un giovane ragazzo che vive a Londra, che ha una fidanzata ormai storica, di cui poi vorrei parlare con lui perché ci ha mandato una foto in cui sembrano inseparabili, che qualche tempo fa è andato a Londra a cercare lavoro, ha cercato un lavoro e incredibilmente a Londra l'ha trovato. Ormai è tardi per ripensarci o per perdere ancora tempo. Prendo fiato per l'ultima volta e mi decido. Suono il campanello. Non mi apre la stessa persona dell'ultima volta, però. Bensì il secco G. Ci stringiamo la mano energicamente, ci presentiamo e poi mi fa entrare. Una volta all'interno comincia il tour guidato. Inizia col mostrarmi il bagno. Poi la volta della stanza principale. E infine la stanza più piccola, quella che sarà poi la mia. Nel frattempo ci raggiunge il giovane Jay. Mi saluta cordiale e poi comincia a mostrare un interesse nei miei confronti che a tratti supera l'essenza informale del luogo. In poco tempo diventa quasi intimo, ma allo stesso tempo risulta stupido. Mi irrita, non posso farne a meno, non so perché, ma mi irrita. Veramente non capisco cosa gli importi, ad esempio, della musica che ascolto di solito. Non capisco cosa gli interessi sapere se preferisco bere il caffè o il tè. Ma forse è solo colpa mia. Sono teso. Troppo. Era il mio primo giorno di lavoro qua in Inghilterra come architetto e prima avevo lavorato sempre qua a Londra come cameriere prima e poi in un fast food, perché praticamente quando sono arrivato a Londra non parlavo una parola di inglese, quindi ho fatto prima un corso di inglese e successivamente ho trovato qualche lavoretto per mantenermi. Dopo la visita guidata ci mettiamo tranquilli ad aspettare D, il capo, che non arriva. Ha telefonato e ha avvertito che è in ritardo, proprio oggi. Nel frattempo però, dopo un istante di calma, riprende l'interrogatorio. Io a questo punto non so proprio più come difendermi dalle domande. Anche perché, via via, stanno diventando sempre più intime. Comincio a sentirmi come un tredicenne all'esame di terza media. È una sensazione strana, decisamente lontana, che non pensavo di ricordarmi nemmeno più. Un po' come quando sei l'unico a preoccuparti, sei l'unico ad avere paura, mentre tutti quelli attorno a te sanno che non stai correndo alcun pericolo, tu però no, e hai paura. Di colloqui di lavoro ne ho fatti tantissimi, soprattutto qua in Inghilterra, sia per fare cameriere ma anche per lavorare in studi di architettura. La domanda più stupida che mi hanno fatto al colloquio, il perché vuoi lavorare in questo studio piuttosto perché vuoi fare questo lavoro, la trovo abbastanza ridicola questa domanda. Anche G, quello che mi ha aperto, mi chiede se preferisco il caffè o il tè. Ancora questa domanda. Rispondo che preferisco il tè. Allora G si alza e comincia a prepararlo. Ok, questa volta la domanda aveva un senso. Il problema è che in questo momento, con lo stomaco tutto tirato, un tè non mi va per niente. Beh, meno male però che ho risposto tè. Il caffè è così lungo che sembra una tazza d'acqua sporca, sarebbe stato ancora peggio. Mi domando come facciano a bere questa roba. Mentre continuo a farmi una lunga serie di domande, la maggior parte delle quali rimarrà senza risposta, finalmente arriva D, il capo. Mi saluta con un semplice sorriso per poi farmi accomodare di fronte ad una scrivania di vetro. Mi presenta un foglio di carta con un disegno e tanti numeri. Ecco, inizia oggi il mio primo giorno di lavoro a Londra. Londra e gli uffici di Londra. Mi è piaciuto il suo racconto perché io non vado a Londra non so da quanti anni. Ogni tanto faccio finta di organizzare un viaggio per Londra, per vedere qualche mostra tipo alla Tate Gallery, sapete, quelle cose che suonano un po' bene, o andare a trovare il mio amico Sergio che ha aperto un ristorante vicino a Charing Cross, solo che poi non ci vado mai. E alla fine la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho letto il racconto di Simone, che parla di uffici e parla di Inghilterra, è stata una serie televisiva che si chiama The Office. Non so se l'avete mai visto, se non l'avete fatto guardatelo perché è un capolavoro. Praticamente The Office è un finto documentario che è ambientato in un normalissimo ufficio inglese, in una ditta che produce, mi pare, carta. E sono solo due serie da 6 episodi l'una, più due puntate speciali, mi pare. Ecco, queste due serie hanno cambiato la storia della TV. The Office è un formato che ha cambiato completamente proprio le regole del gioco televisivo. Ha cambiato il modo di fare comicità e ha cambiato il modo di fare quei programmi lì. E non posso spiegarvelo in breve, dovete vederlo. Per capire, The Office lo fanno anche in America, dopo che l'hanno fatto lì. Al momento sta andando in onda 8ª stagione di quel programma. Ecco, il merito di tutto questo, la mente che sta dietro a The Office, è un tizio che si chiama Ricky Gervais. Ricky Gervais in Italia non è particolarmente famoso, però ormai è una stella di fama mondiale. Per dirvi, domenica sera, ha presentato i Golden Globes ed era la 3ª volta di seguito. Oltre a The Office, che di fatto è stata la trasmissione che lo ha lanciato a livello mondiale, Ricky Gervais fa un sacco di cose. Fa podcast più che programmi radiofonici e detiene il record del podcast radiofonico più scaricato al mondo. Poi fa degli spettacoli comici in teatro, in giro per tutto il mondo, scrive libri, ha fatto 2 film, ha partecipato a un sacco di altri. E la cosa incredibile di Gervais è la sua capacità di spostare l'asticella della comicità sempre un po' più in là. È conosciuto come uno dei comici più scorretti e cattivi del mondo. Non ha paura di nulla e riesce a far ridere anche toccando gli argomenti più delicati. Quest'anno la BBC ha mandato in onda un'altra sua serie che ha ideato lui, che si chiama Life is too short, vuol dire la vita è troppo breve. Più o meno parla di un tizio, è un finto documentario, tecnicamente si chiama Mockumentary, e parla della vita di questo tizio che si chiama Warwick Davis, è un attore britannico, forse ve lo ricorderete perché ha fatto la parte, avete presente quegli orsetti nani che si vedono in Guerre Stellari, nel Ritorno dello Jedi, gli Ewok, esatto. Ecco, il suo film più famoso rimane però un film che si chiamava Willow, era una roba anche di Sunani. Vabbè, insomma, comunque nel caso non vi dicesse nulla questo nome, vi posso dire che la particolarità di questo attore è che è un attore nano. Ecco, Ricky Gervais ha pensato bene di fare una serie interamente dedicata a lui e alla sua vita. Solo che non è una roba ovviamente accomodante, no, è proprio l'opposto. L'idea di questo programma è quella di giocare con tutti quegli stereotipi e di dipingere questo tizio come un fastidioso, supponente e antipaticissimo fallito. Un attore per cui il telefono non suona più da anni, che però continua a comportarsi come se fosse una persona molto famosa, mettendosi sempre in situazioni oltre l'imbarazzante. Se volete fate una prova, guardatelo. Poi non potrete più farne a meno. Red light, green light, make up your mind. Red light, green light, you're much too unkind. She loves to love old music and she says the Lord is funny. But she whimpers in the morning when she finds she has no money. I'm wrapped up. (349) 238 6666 oppure voi siete qui @radio24.it. Simone in questo momento è a Londra, giusto Simone? Cioè l'abbiamo chiamato là. Pronto Simone? Pronto, ciao. Ciao, come stai? Chiamiamo noi, vero? Non è che chiami tu. Abbiamo no, chiamato... chiamate voi. Benissimo. Sì. Come stai Simone? Benone. Dove Benone. Sei? Un po' emozionato, va bene. Dunque io non sono proprio dentro Londra, sono a 20 chilometri da Londra. In un posto che si chiama? Sevenoaks? Esatto, sì, è un piccolo paese attaccatissimo a Londra. Dove però c'è lo studio per cui lavori? Esatto, dove mi sono trasferito anche se sto studiando all'università dentro Londra. Quindi scusami, allora, una cosa per volta. Tu in questo momento sì. sei al lavoro, sei in studio, in ufficio, come si chiama? Sì, A2D Architecture. Perfetto. Praticamente sono appena uscito per parlare con voi. Benissimo. Me l'ho fatto dare 10 minuti. Dimmi che cosa hai fatto, dimmi che cosa hai fatto in questa giornata di lavoro, proprio i compiti che hai svolto, Simone. Dunque, da questa giornata di lavoro abbiamo da poco aperto il blog dello studio. Che si chiama? A2D Architecture. Ok. com, sì. E dopodiché mi sono dedicato a un disegno, a disegnare praticamente un ampliamento di una casa residenziale qua della zona. Ok. Qua vanno molto questi ampliamenti. Ma perché quindi... c'è stato un condono? No, assolutamente, che qua vanno molto gli ampliamenti, diciamo, esatto, molti hanno l'ultima molti moda hanno di Londra è l'ampliamento. Sì, diciamo di sì, perché diciamo è più economico e costa meno che comprarsi una casa nuova. Ma questo però, scusami, un po' in generale, in assoluto nel mondo conviene più ampliare che non comprarsi una roba nuova, o sbaglio? Indubbiamente, però qua è molto più diffuso perché ci sono molte più case unifamiliari rispetto anche all'Italia. Senti, quanto si lavora a Londra? Quante ore di lavoro fai in media al giorno? Dunque, io inizio alle 9 di mattina e stacco alle 6 di pomeriggio con un'ora di pausa pranzo. Beh, dal lunedì al venerdì. Quindi regolare, insomma. Sì. Nulla di particolarmente differente dall'Italia. Perché tu non sei ancora laureato, giusto? Dunque, sono laureato alla triennale, sto facendo la specialistica qua a Londra. A Londra, ok. Come studente part-time, quindi soltanto il lunedì devo andare all'università a seguire le lezioni. E lì, il resto lavoro qua. E lì hai un contratto ufficiale, è una roba... Sì. Indeterminato, quando mi hanno fatto subito indeterminato. Come indeterminato? Sì. La parola indeterminato non la sentivo, credo, dall'84. Ma dimmi, dimmi quanto si prende mensilmente per un lavoro come il tuo a Londra. Dunque, io sono assistente architetto e quindi con una laurea triennale. In media, non voglio sapere quanto guadagni tu. No, signora. Esatto, un po' più di 1.000 sterline al mese. Che sono 1.300 euro. Circa, 1.300 euro. Senza le tasse. Però scusami, quanto costa fare la spesa a Londra per una cena? Un po' di più. È tutto più caro del 20-30% rispetto all'Italia. Cioè, tu con quello che guadagni lì ci stai dentro a vivere, a pagare l'affitto? No, mi aiutano ancora i miei genitori, sia per le tasse universitarie, che qua sono molto più alte rispetto all'Italia, nonostante l'università è pubblica. Uh-huh. E mi aiutano i miei genitori e i genitori della mia ragazza, diciamo, è un po' tutto insieme. Diciamo. Senti, ma l'idea è quella di rimanere lì o di tornare? Non lo so, ho deciso di venire a Londra praticamente in una settimana quasi, appena finita la triennale, poco uh-huh. prima. Quindi chi lo sa tra 2-3 anni. Senti, la tua fidanzata come si chiama, Simone? Sara. E Sara ha deciso di venire con te pronti via, oppure lei aveva qualcosa da fare? Anche lei stava finendo la triennale, quindi abbiamo deciso di fare la specialistica a Londra. Lei studia comunicazione. Uh-huh. E quindi diciamo abbiamo avuto la fortuna di avere una carriera parallela, diciamo. E cosa sta facendo adesso? Lei sta facendo il master qua sempre a Londra, in un'altra università, in comunicazione, e ha lavorato un po' nel mio ufficio gestendo appunto la parte di comunicazione. Senti, non voglio sapere quanto costa invece un master a Londra. C'è una cifra, dunque, da piangere? Abbastanza. Abbastanza da piangere. Magari non da piangere, ma da rattristarsi un pochettino. È un pochettino, se diciamo che è un bel po' più alto rispetto all'Italia. Ma scusa Simone, quindi ad oggi, in un 18 gennaio del 2012, con 2 anni sei lì, giusto? Sono 2 anni e mezzo e sono qua e lavoro in questo studio da un anno. Ok, facciamo due anni e mezzo che sei a Londra. È una cosa che rifaresti, è una cosa che consiglieresti, è una cosa che vuoi continuare a fare? A tutte e tre le domande. Sì, esattamente, la consiglio, la rifarei e sono contentissimo di averlo fatto, indubbiamente. Senti, e poi chiudo e ti saluto e ti lascio tornare a lavorare, sì. Sennò altrimenti lì ti fanno lavorare. Altrimenti fino... non ho esatto. Un contratto indeterminato. Esatto, sai, proprio tutti i luoghi comuni, perché lì si lavora, lì si lavora, mica come qui. Parliamo velocemente, proprio per farmi i fatti vostri, della tua fidanzata. Tu hai 27, solo i calciatori probabilmente a 27 anni sono fidanzati da così tanto tempo e si portano la fidanzata ovunque come fate voi. Cioè, sono 11 anni che siete fidanzati, quindi da quando ne avete 16? Io ne avevo 16 e lei 14, sì. Siamo cresciuti insieme e praticamente... Nel senso che vi conoscevate, cioè vivevate no, vicini? No, siamo cresciuti insieme perché in 11 anni si può dire. Ah, perdonami, insieme. Certo, ho capito, ok, se avete fatto un bel pezzo di strada insieme. Cioè, quasi sì. Più il tempo che siete insieme che non quello che eravate, siete stati da soli. Quasi, sì. Tra 4 anni ci arrivate, lei tra 3 direi. Senti Simone, ti ringrazio moltissimo per la chiacchiera e per le informazioni che mi hai dato. Salutami Sara e in bocca al lupo per tutto. Crepi, ciao, grazie mille a voi. Ciao. È stato un piacere, ciao. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. L'illustrazione di oggi è molto bella e lo dico no, senza fare dell'ironia. Ci sono due ombre grigie sulla parte destra e sulla parte sinistra del disegno. Al centro c'è questa specie di uomo, ma che sembra più un piccolo mostro uscito da Guerre Stellari, con un foglio in mano, alle sue spalle una torre londinese e i due che incombono su di lui. Ho realizzato 3 vetrate sabbiate, ho iniziato alle 9, ho finito ora, vado a consegnarle, Alessandra. Dalle 6:30 sono sul mio escavatore in mezzo a fango e melma, pensa che bello tornare a casa. Ore 7, timbrato, caricato furgone e partito verso le montagne bergamasche, riconsegnato gli estintori revisionati, recuperato 3 estintori da una ditta che ha subito un incendio e poi via con manutenzione di estintori e porte tagliafuoco, Fabio Federico da Bergamo. Ore 7:30, acceso la stufa a legna con diavolina, diviso la nappa dal velluto, acceso pressa per tagliare ballerine da donna, tomaia più punte più toppini, più fiocco più bordo, affilato taglierino e taglio di divani e poltrone, tutto ascoltando Radio 24, Stefano da Udine. 6:30, partito da Treviso verso Pavia, meeting tecnico con chimico per colla parquet, poi meeting tecnico con la industria, poi in produzione per campioni, ora torno a Treviso e faccio tutte le telefonate che non ho fatto fino ad ora, Michele. Ore 9, riparazioni, 10:30, venduto un costume intero, cucita produzione costumi per un'estate, 13, pausa, 14:30, di nuovo produzione, cucio costumi da bagno per donna. Ingresso alle 17, un occhio alle agenzie, caffè, riunione, caffè e poi scalette del TG fino all'1, Rob. Ho appena finito di tagliare una siepe da 27 metri, ora mi preparo a caricare tutto sul mio camion, Francesco, piove di sacco Padova. Vado avanti, io vado avanti. 6:30, sostituzione pulsante apriporta. Dopo arriva il mercato e non passo più. Alle 8 inizio a finire l'ultimo appartamento di una palazzina in città. Fino alle 11 gli inquilini già abitanti mi coinvolgono in una riunione improvvisata sulle scale. Pomeriggio tranquillo, Stefano, elettricista di Piacenza. E ancora, sto tornando da Trento, partirò stamattina da Varese. Oggi ho cercato di convincere un possibile cliente che noi sappiamo sviluppare in Django e Python. Ci ho scritto 2 libri, spero di esserci riuscito. Cosa sono Django e Python? Sono 2 software. Ah, 2, ok. Bonini mi dice 2 linguaggi di programmazione. Sono i vostri messaggi. Potato pianta in ospedale a Vicenza e poi da privati a Vicenza e Casale. San Pietro. Cambio vetri d'auto a domicilio per una multinazionale. Cambiato una Croma, una Punto e una Peugeot. Ugo da Vicenza. Tutti dal nord-est. Ciao Matteo, io è tutta stamattina che sto selezionando forme di grana padano con una macchina raggi X che si chiama Verix, Valerio da Brescia. Gli ultimi, poi finisco. 9, arrivo in redazione. 10, intervista a sindaco Emiliano. 11, monto servizi. 14, in diretta TV per il TG. Ora a casa da mio figlio. Anna Grazia, da Taranto. Questi sono solo alcuni dei messaggi, delle liste di cose da fare. Prima o poi faremo un programma che si chiama La Lista e faremo liste tutto il giorno, solo liste, ma senza parlare d'altro, cioè parti. Non mi sembra una buona idea di giudicare dalla faccia di Bonini. Forse ci mettiamo anche qualcos'altro, Tiziano. Cioè non è che cominciamo alle 16 e finiamo alle 16:45 solo liste. Però quasi. Oggi è arrivato poi una mail che non era, diciamo così, tecnica. Non descriveva solo una giornata di lavoro di un professionista. Descriveva una giornata di lavoro di una mamma. Mi tuffo nel traffico del mattino. 30 minuti, parcheggio e via a piedi. In ufficio sono la seconda ad arrivare, ma nel giro di qualche minuto l'ambiente si anima. Si parte ognuno con il proprio lavoro. Viene interrotto soltanto per la pausa caffè alle 10:30. 12:30, esco e mi avvio sulla strada del ritorno, dove faccio una sosta veloce all'Esselunga per comprare qualcosa di pronto. Il frigo è vuoto. Mi faccio convincere dalla faccia delle lasagne. Ne agguanto di corsa 2 vassoietti e riprendo la via del ritorno, mentre il cellulare squilla. La mia amica mi racconta delle incomprensioni amorose fra lei e un uomo che ha conosciuto da poco. Arrivo a casa, Massimo ha apparecchiato la tavola. Il mio acquisto viene scaldato nel microonde e ottiene un gran successo. Per oggi, Esselunga 1, mamma 0. Pranzo, caffè. Sistemiamo la cucina per Marta e Massimo, è già arrivato il momento di tornare a scuola e al lavoro. Giovanni invece deve andare al catechismo, io devo andare in cantiere. Arrivo al cantiere, trovo ad aspettarmi il famoso idraulico, ci presentiamo. Io spiego, lui spiega, e mi trovo nuovamente a discutere con un uomo che, in quanto tale, è assolutamente sicuro di saperne di più di me in fatto di architettura, di estetica, di funzionalità. Nonostante io sia un architetto e lui un idraulico. Lo ascolto con un bel sorriso stampato in faccia, mentre dentro di me mi dico, ecco, ci risiamo, fregatene. Ho finito, devo ritirare Giovanni dal catechismo, portarci Marta. Arrivo alle 17, Marta è sulla porta, mi aspetta lamentandosi dell'orario. Giovanni sarà per strada, chiedendosi che fine ha fatto sua mamma. Torno di fretta verso casa, incontro Giovanni. È tornato a piedi, 45 minuti di scarpinata veloce. Alle 18.15 sono a casa e decido, contro ogni mia abitudine, di andare a fare la spesa di venerdì sera. Entro, carrello e via, a zigzag fra gli altri, fermi nelle prime due corsie all'acquisto di frutta e verdura. Mi guardo in giro e noto che la clientela a quest'ora è diversa da quella delle 8 del mattino. Ci sono molte coppie giovani e anche uomini soli, molti. Prendo pane, popcorn, carne, pasta, detersivo per lavastoviglie e ci siamo. Alla cassa mi guardo in giro. Pago e mi avvio all'uscita. Salgo in macchina sperando che il traffico sia diminuito e non posso fare a meno di pensare Esselunga 2, mamma 0. We could build a house if that is what you need. Everything around me reminds me of him. I'm drowning into my own sea. It's a matter of time. It's a matter of time. Elisabetta, 35 anni, lavoro nella mia bottega di ceramica. Oggi decoro tutto il giorno, prima cornici con tema giungla, elefanti, giraffe, leoni, ora gufi e civette. Sto riparando un distributore automatico di caffè, Nagoduria, Paolo De Bassano del Grappa, ma il migliore di tutti rimane lui. Ho cannato il disegno e ho perso tutta la giornata. Oscar, grazie a Tiziano Bonini, Paolino Corleoni, Margherita Ina e a Federico Bernocchi. La storia di oggi era la storia di Simone e parlava di vita da ufficio. La storia di domani è la storia di Silvia e parla di nonni. Mio nonno si fece a piedi nell'Africa di quel tempo, non so quanti chilometri. Riuscì a raccimolare del cibo e dei posti al coperto dove dormire, in villaggi dove insegnava a giocare a carte e a dama. Le carte le aveva con sé, mentre le pedine della dama e la tavola le aveva intagliate lui con le sue mani. La forza di sopravvivenza, il desiderio di tornare a casa ed evidentemente la sua familiarità con gli stenti e la sua mente semplice lo hanno aiutato.